Sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 22 settembre, il sole in regione sorto alle 6.54 e tramonterà alle 19.06. Sabato ci sarà la luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno ad Armando Mucchino e Sebastiano Franco. L'apertura della puntata di oggi è dedicata ad uno scrigno di biodiversità viticola che racconta la storia della viticoltura friulana. In comune di Faedis c'è un vigneto da 5.000 metri piantato nel 1895 dove sono custodite e studiate 27 diverse varietà. Un museo vegetale a cielo aperto. A seguire il corsivo di Enos Costantini che auspica diversi approcci allo studio dell'ecologia che dovrebbe, a suo avviso, essere strettamente legato agli ecosistemi, anche quelli più piccoli e locali. Che fa dei sottoprodotti della vinificazione è il tema trattato nella rubrica delle normative, mentre entra nel vivo quella che abbiamo dedicato all'olio e all'ulivo in Friuli Venezia Giulia, che ancora per questa puntata si sofferma in un inquadramento storico. Ci sono poi nuove tendenze del turismo legate alle visite dei giardini che stanno prendendo piede anche in regione e a seguire la seconda puntata sulla storia e le prassi di utilizzo del letame, il fertilizzante per antonomasia. In chiusura, come di consueto, l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Nelle terre di Faedis, ai piedi dell'altura del Colvillano, da oltre un secolo c'è un museo vegetale a cielo aperto, un vigneto piantato nel 1895, uno scrigno di biodiversità che racconta la storia della viticoltura friulana con incursioni in tutta Europa. Il professor Carlo Petrussi, ricercatore di viti antiche, da quando l'ha scoperto non ha mai smesso di studiarlo. La vigna di Faedis è importante perché attualmente è unica. È una vigna che ha 130 anni, raccoglie in sé 27 vitigni, vitigni antichi friulani, vitigni internazionali, ed è una vigna dove noi possiamo capire, immaginare qual era la viticoltura friulana fino agli anni 60. Viticoltura che ormai sono nella memoria degli ultimi nonni, degli ultimi viticoltori, ma i giovani hanno difficoltà a immaginare qual era la viticoltura di allora, qual era la passione che mettevano i nostri vecchi contadini, la loro manualità, la loro gestualità, e quindi è qualcosa di unico proprio per questo. È stato definito un vigneto d'Europa, perché? Perché raccoglie vitigni italiani, vitigni europei, e quindi è un esempio di come già nel passato la gente viaggiava e trasportava con sé la genetica, le piante che vedeva, che gli interessavano, proprio perché il legame con la terra era basilare. Un monumento vegetale, un museo della vite. Sì, è un museo vivente, io lo definisco un museo vivente, un museo che chi lo vede si appassiona, si emoziona, proprio perché trasmette queste sensazioni di passione della vecchia viticoltura, della cultura nostra contadina, proprio la vera cultura contadina, quella che noi abbiamo dimenticato. Se dovesse scegliere una vite come emblema, come simbolo di questo vigneto, quale sceglierebbe? Boh, l'emblema per questo vigneto qua è il refosco di Faedis. Siamo Faedis, il vecchio refosco che era coltivato in tutto il Friuli, e oggi lo ritroviamo gran parte solo su questo territorio. E poi ci mostrava la nonna del Prosecco. Qui noi abbiamo la presenza di un ceppo di Rossera come nome friulano, ma in realtà è la Vulpea, un vecchio vitigno della Pannonia, e almeno la genetica ci dice che ha dato le origini a alcune varietà nostre, tipo lo Schioppettino, la Glera Tonda, la Glera Lunga, quindi abbiamo una storia su questa vigna qua. Cosa bisogna fare per il futuro di questa vigna? E qui bisogna volergli bene, bisogna conservarla nel modo corretto e soprattutto sperare che il titolare abbia ancora la passione che ha dimostrato negli ultimi 40 anni. Claudio Zani è il proprietario della vigna storica di Faedis. Due parole, da dove arriva questa vigna? Arriva dal 1895, quando il bisnonno Cesare Zani impiantò questo vigneto, e da allora lo portò avanti nonno Giuseppe, papà Elvio tuttora, e adesso sono arrivato io. In futuro ci sono i figli, Nicolò e Aurora, che spero seguano le nostre tracce. Come mai avete deciso di mantenerla così com'era? Perché secondo noi è un patrimonio storico e questo bisogna mantenerlo e portarlo a conoscenza della generazione futura. Quindi per quello noi ci crediamo, abbiamo passione di portare avanti questo vigneto. Qui ci sono 27 varietà di vite. Che vino fa? La maggior parte è Refosco di Faedis, l'altra parte sono vini bianchi e rossi che vengono ovviamente, siccome sono poche viti per varietà, mescolati con o il Merlotto, il Verduzzo o il Tokaj. Chi glielo fa fare? La passione per questo lavoro, questo territorio, perché questa vigna è all'interno di un territorio vocato alla viticoltura, ma ricco di cultura, storia e anche viticoltura. Nel corsivo di oggi Enos Costantini propone lo studio della biologia legato a quello degli ecosistemi, le interconnessioni del territorio fino alle microrealtà che possono far comprendere tante correlazioni. I libri di biologia solitamente iniziano con lo studio della cellula, studio affascinante perché le scoperte, soprattutto quelle più recenti, sono sempre cariche di emotività ed emozione, nonché di quella trepidazione che precede l'attesa della scoperta che cambierà il mondo e che ci cambierà la vita. Se poi vi sono applicazioni con positive ricadute sull'industria farmaceutica e sull'industria genetica, allora ne parlano anche i media, e la scienza dei laboratori sale alla ribalta sul piedistallo dei winners e con l'aureola di intoccabile santità. Noi non abbiamo certo nulla contro siffatti studi, ma pensiamo che in una politica dell'istruzione modernamente intesa, il primo capitolo del libro di biologia dovrebbe essere dedicato allo studio degli ecosistemi, dapprima come teoria generale, poi scendendo nell'attuale. E scendendo fino a quelli più semplici o apparentemente più semplici e più circoscritti, quali potrebbero essere lo stagno, il prato, la siepe e financo il singolo albero. Capire la foresta tropicale, la savana e la tundra va bene, ma ciò che abbiamo quotidianamente sotto gli occhi può essere ancora più efficace. Il fosso, la roggia, il fiume inquinato, il giardino, il parco pubblico, fino al campo coltivato, al campo asfaltato, al rio tombinato, al parcheggio abbandonato, alla caserma in disarmo e alla zona industriale senza industrie. Soltanto la conoscenza degli ecosistemi e la sua conquista delle nostre coscienze consentirà forse di salvare il pianeta. Nella nostra regione vi sono fior di centri di ricerca che però sgarfano nel più piccolo, studiano la materia nei suoi più reconditi risvolti, ma non la natura nelle sue più ampie geografie. Non ci risulta che ci sia un insegnamento universitario chiamato Ecologia del Friuli, oppure Ecosistemi e Agroecosistemi del Friuli. La scienza attuale, gli scienziati vanno con parti stagni, ma non è colpa loro, li hanno tirati su così. Quindi manca quella visione d'insieme che non è né religione né ideologia, solo scienza applicata al nostro futuro. La navicella spaziale chiamata pianeta Terra è sottoposta al forte rischio di diventare un ipertecnologico transatlantico chiamato Titanic. È tempo di vendemmie e le cantine stanno lavorando a pieno regime. Con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, parliamo oggi della gestione dei sottoprodotti della vinificazione. In anni non troppo lontani le vinacee erano considerate una risorsa che veniva valorizzata attraverso le distillerie. Oggi invece, vuoi per la generalizzata diminuzione dei consumi di superalcolici, vuoi per l'eliminazione di aiuti comunitari alla trasformazione, le distillerie non sono più in grado di assorbire tutta la produzione di fece vinacee, che pertanto possono diventare un problema per l'azienda. A stima 40.000 tonnellate all'anno solo in Friuli Venezia Giulia. E qual è il loro destino? Dalla cantina possono uscire tre tipi di sottoprodotti: i raspi, a meno che non si esegua la raccolta meccanica, che normalmente sono ridistribuiti nei campi senza alcuna formalità. Poi ci sono le vinacee e le fece, che da sempre sono soggette a un regime di vigilanza amministrativa, in quanto, forse in modo un po' anacronistico, vengono ancora considerate potenziali fonti di sofisticazione. Fino al 2008, infatti, era obbligatoria la loro consegna in distilleria, ma oggi, per i motivi già ricordati, sono possibili anche utilizzi alternativi. Per esempio? La legge consente l'utilizzo energetico nei biodigestori e nei termovalorizzatori, l'estrazione di composti per la produzione di prodotti cosmetici o farmaceutici, l'estrazione di enocianina per uso enologico, l'utilizzo in preparazione di particolari prodotti alimentari come la brovada o i formaggi stagionati. Ma l'utilizzo alternativo più comune è sicuramente quello agronomico, vale dire la distribuzione in campo come ammendante organico. Stranamente non è contemplata la possibilità di utilizzo zootecnico, che sarebbe molto interessante, specie per i bovini, perché è dimostrato che la vinaccia contiene composti che riducono sensibilmente la produzione di metano in fase di digestione. E l'uso agronomico a quale limitazioni è soggetto? Ma anzitutto è necessario presentare all'Ispettorato Repressione Frodi una comunicazione almeno 4 giorni prima della distribuzione in campo. Da qualche settimana si può inviare anche telematicamente dagli applicativi dei registri di cantina. Poi è necessario rispettare il quantitativo massimo di 30 quintali per ettaro e il divieto di distribuzione sui terreni gelati, saturi di acqua o nelle fasce tampone dei corsi d'acqua. Nel caso di distribuzione di fece, queste devono essere sempre denaturate con solfato ferroso. Attenzione, perché queste formalità consentono di derogare al testo unico ambientale. Diversamente, fece e vinace non sarebbero più considerate sottoprodotti, bensì rifiuti, al pari delle farine fossili comunemente utilizzate per la filtrazione dei mosti, e come tali dovrebbero essere smaltite in discarica. Inizia oggi con Ennio Scarbolo, che ci cura la rubrica dell'olio, la lunga storia di questa pianta e dei suoi prodotti. La coltura dell'olivo ha origini antichissime, 6.000 anni fa. È una pianta mediterranea legata a tutte le civiltà che si sono succedute nel corso dei millenni. Non a caso considerata pianta sacra dalle 3 religioni monoteistiche della zona, i cristiani, gli ebrei e i musulmani. È una pianta straordinaria, vive con poca acqua, si adatta a quasi tutti i tipi di terreno. Le foglie sono cibo per gli ovini, le olive si mangiano, se spremute si ottiene l'olio. Il nocciolo, che contiene una certa percentuale di olio, se bruciato sprigiona un calore superiore al legno, serviva per fondere i metalli. Il legno di olivo è resistente e si usava anche per le costruzioni. A quei tempi l'uomo, da cacciatore e raccoglitore, passò allo status distanziale, ossia quello di pastore, lavoratore della terra, agricoltore. Imparò a selezionare i migliori semi di cereali e piante da frutto. La domesticazione dell'olivastro selvatico pare sia avvenuta tramite una selezione massale ed una impollinazione casuale di una pianta di origine africana, foglie lunghe e strette, ed una di olivastro con drupe, con abbondante polpa e ricca di olio. L'origine delle coltivazioni della pianta è attestata nella parte orientale del Mediterraneo, Siria, Palestina, Turchia, Iraq, con testimonianze risalenti al 3° e 4° millennio avanti Cristo. Da questa zona la pianta dell'olivo, assieme alla tecnica di coltivazione e al modo per l'ottenimento di olio, si sarebbe diffusa nell'Egitto e nella Grecia. Grazie ai greci che colonizzarono le coste dell'Italia meridionale, ma soprattutto al popolo dei Fenici, che esperti navigatori raggiunsero tutte le coste a loro conosciute, la pianta dell'olivo si diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo. Gli attuali stati come Italia, Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia e Libia, quelli della costa del mare est di Adriatico, Slovenia, Croazia, Montenegro e Albania. Sono tuttora, assieme naturalmente a Grecia, Siria e Turchia, i paesi che rappresentano il nucleo storico della produzione di olio d'oliva. La maggior produttore di olio è la Spagna, seguita da Italia, Grecia, Tunisia. In bicicletta, la scoperta del patrimonio verde del Friuli Venezia Giulia. Questo è il titolo del contributo di oggi di Franca Merluzzi per la rubrica dei giardini. Il numero degli amanti della bicicletta è in continua crescita. C'è chi fa pochi chilometri e chi affronta escursioni impegnative. Le ciclovie sono sempre più frequentate, come l'Alpe Adria con le sue tratte da Salisburgo a Grado. Dal nord arrivano in regione, specialmente d'estate, molti cicloturisti. Verso sera, per esempio, il centro di Venzone si anima per l'arrivo di chi, dopo aver pedalato durante la giornata, dorme per una notte entro le mura, un po' come succedeva per mercanti e pellegrini nel periodo medievale. I passaggi dei ciclisti, spesso stranieri, sono una novità nei piccoli paesi posti lungo i percorsi anche al di fuori della rete ciclabile regionale. Non tutte le tratte, infatti, sono ancora ultimate. Qualcuno si ferma per vedere un castello, un borgo rurale, uno scorcio sul fiume. E i giardini storici, pubblici e privati, i roseti, i parchi, gli orti botanici e gli orti giardino che impreziosiscono il paesaggio, possono diventare un'attrazione per questo tipo di turismo in forte sviluppo? Francesca Tomins, per la sua tesi di master di primo livello dell'Università di Udine in valorizzazione turistica dei beni ambientali e culturali, ha analizzato assieme alla sua relatrice Giovanna Tinunin il cosiddetto turismo dei giardini. Passando dalla teoria alla pratica, ha creato poi, per conto dell'ente regionale per il patrimonio culturale, alcuni itinerari di mobilità lenta, in treno e in bicicletta, elaborati con la collaborazione dei soci della FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, e del Servizio Lavori Pubblici della Regione, i percorsi sono pensati per raggiungere i giardini e le ville descritti nelle guide cartacee della collana Paesaggi, edita dall'ente stesso. Offrono spunti per conoscere le particolarità dei luoghi, suggerimenti per visite adatte a chi ama stare all'aria aperta, preferisce muoversi in bicicletta o coi mezzi pubblici, da solo o in compagnia, ama il contatto con la natura, l'arte e la cultura. Dobbiamo però dire che c'è ancora molto da fare per presentare in modo accattivante il patrimonio giardinistico regionale, ma qualcosa si muove. Diverti sorprese di luoghi esposti ad essere veduti, di ville, di giardini e degli straordinari personaggi che li hanno voluti, si parlerà anche a Pordenone Legge, nell'incontro coordinato da Umberto Alberini, che si terrà oggi in piazzetta Ottoboni alle ore 11. Sandro Menegon, nelle passate storie che ci ha raccontato, ha sempre diviso la regione per aree geografiche. Penso lo faccia anche su questa serie dedicata al letame. Direi di sì, perché oltre ai parametri accennati nella prima puntata, le caratteristiche climatico-ambientali influiscono notevolmente sulle caratteristiche del letame e sulle metodiche di utilizzo. E quindi da dove si inizia? Dalle malghe. Nell'arco della giornata gli animali o erano al pascolo o generalmente ricoverati in fabbricati denominate logge o staloni, dove si coricavano su poste in terra battuta o su lastricato perché non si faceva uso di lettiere. Molti alpeggi erano collocati oltre il limite del bosco e, considerato che il numero degli animali immonticati era numeroso, il quantitativo di lettiera necessario sarebbe stato notevole e i pastori, gravati da molti alti incarichi, non avevano il tempo per dedicarsi alla raccolta delle stramaglie. Quindi solo le deiezioni andavano a costituire il materiale concimante dei pascoli. E quali le metodiche di concimazione? Agli inizi del Novecento, nelle malghe di Polcenigo, in alcuni della Val Celina, veniva usato il sistema della mandratura degli animali entro steccati mobili che si cambiavano di posto, mentre la zona montana e pedemontana veniva adottata l'irrigazione fertilizzante. La coltivazione di questi pascoli si fa all'ordinario a mezzo dell'acqua. Si scioglie in questa la stercorazione delle bestie e per appositi canaletti si conduce e si diffonde ove più richiede la natura e la posizione del monte. Fertilizzazioni ovviamente periodiche. Sì, e le deiezioni venivano raccolte più o meno razionalmente fino all'utilizzo. La precarietà dei fabbricati e la mancanza di vasche di raccolta delle deiezioni era certamente da attribuire a ragioni economiche e logistiche. Basti pensare che essendo in quota mancava spesso la sabbia e il legname e l'acqua per cuocere e spegnere la calce non erano sempre abbondanti a portata di mano. Alle volte il bosco e la conformazione del terreno permettevano soluzioni alternative. Il letame si raccoglie entro concimaie rozzamente costruite con tronchi di legno o vi è però una specie di affossamento davanti alle logge destinato a trattenere le deiezioni animali. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento a prudente venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole alla Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,60 e 15,80 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 60,63, si quota tra 15,30 e 15,80, il frumento tra 16,80 e 17,10. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 1 euro e il frumento di 1,90 euro il quintale. Mercato fiacco all'ortofrutticolo di Udine, con prezzi in movimento. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero sono pagate all'ingrosso tra 1,10 e 1,20 euro il chilo, IVA esclusa. Le zucchine tra 1,20 e 1,30. Le melanzane tonde tra 1,30 e 1,40. La scarola riccia tra 2,80 e 3 euro. I pomodori italiani in grappolo ai finocchi tra 1,30 e 1,50. Il radicchio rosso tondo e quello di Treviso precoce tra 2,50 e 2,80. I peperoni gialli e rossi tra 1,40 e 1,80. I cavoli tra 1,80 e 2,20. I kiwi tra 2,50 e 2,70. I meloni tra 1,40 e 1,80. Le pesche noci tra 1,20 e 1,80, le albicocche a 2 euro al chilo, le mele gala tra 1,20 e 1,50 e l'uva tra 2,20 e 2,50. Cenni di pesantezza nel settore della pesca per un leggero vento in quota. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati tra 22 e 35 euro al chilo, IVA esclusa. Le orate e le sogliole da 12 a 24, le canocce da 5 a 14, le seppie a 12 il chilo, le passere da 13 a 16, le anguille a 18 il chilo, il palombo da 4 a 14 e le triglie a 2,50 il chilo. Infine, scambi con sostanziali variazioni nel settore degli avicunicoli, con i polli a terra pagati tra 1,17 e 1,19 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,59 e 1,61, le faraone tra 2,5 e 2,09, le anatre tra 2,30 e 2,34, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUN di Verona sono tra 2,10 e 2,16, mentre il prezzo delle uova oltre 73 grammi è di 13 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Abbiamo avuto qualche giorno con afflusso d'aria secca e decisamente fresca, le temperature minime sono scese rispettivamente sotto i 15 gradi sulla costa, i 10 gradi in pianura, i 5 nelle valli di montagna, avvicinandosi anche agli 0 gradi. Sulla costa la bora ha soffiato per qualche giorno raffreddando il mare e la laguna, condizioni che hanno ovviamente favorito le operazioni di raccolta in campagna. Domani, in corrispondenza dell'inizio dell'autunno astronomico e quindi con la durata del giorno esattamente uguale a quella della notte, un fronte occidentale arriverà sulla regione già di primo mattino, determinando cielo da nuvoloso a coperto, piogge anche abbondanti e temporali. Ovviamente l'umidità dell'aria aumenterà e così anche le temperature minime. Le massime saranno poco sopra i 20 gradi su pianure costa. Martedì il fronte se ne andrà e il tempo migliorerà, per cui avremo cielo in genere poco nuvoloso e le temperature saliranno di qualche grado. Mercoledì un altro veloce fronte proveniente da ovest potrà portare qualche altra pioggia e qualche temporale, mentre tra giovedì e venerdì il tempo tornerà a migliorare e le temperature massime si riporteranno sui 25 gradi, mentre le minime scenderanno sotto i 15. Nel fine settimana il tempo potrebbe di nuovo peggiorare e farsi più umido, ma come sempre vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che quotidianamente l'Osmer ARPA elabora e che vengono diffuse anche dai notiziari radio regionali della RAI, nonché rese disponibili su internet con la telefonia mobile e tramite gli altri canali informativi. Termina qui la puntata odierna, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana, San Michele, la chistine tal fosse el, ovvero che al San Michele, 29 settembre, iniziano a cadere le castagne a terra, nei fossi. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitanecampi@rai.it, potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Sebastiano Franco e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.